sei venuta per me. O bella sconosciuta, ed io lo so perché. Perché sapevi che ti aspettavo solo per vivere con te. Messaggera d'amore, dal mare sei venuta, dove è più bello amare. Questa è la Spagna, regno dei sogni che ti sapranno incatenare. Qua giù tu troverai amori non provati mai, e i fiori sbocceran per te, per te. E ascolterai canzoni non udite mai, che tu non scorderai mai più, mai più. Sei venuta per me, oh bella sconosciuta, ed io lo so perché. Perché sapevi che ti aspettavo solo per vivere con te. Venuta per me, oh bella sconosciuta, ed io lo so perché. Perché sapevi che io t'aspettavo solo per vivere con te. Sei venuta per me.